Edition. Rockstar all shit born. Respira. Adesso respira ancora più forte. Sei pronto? Respira. Sei pronto a respirare? Respira pieno. Un bel respiro e... Fatti da parte, vado di fretta. Vado verso quella pattuglia con una beretta. Come se dovessi chiedere scusa anche al Papa. Perché questa guerra è santa. Krav Maga. Siamo kamikaze di una religione sconosciuta. Anzi conosciuta con il nome di arti marziali subliminali. Siamo il gioco che devasta. Siamo il cuore quando pompa mille e poi basta. Siamo quando il cuore pompa mille e poi basta. Siamo quella casta di illuminati che vogliono i patti chiari già fatti. Siamo come la coca non è un'opinione. Siamo come uno squadrone della morte di notte. Le botte date e ricevute nella vita. Siamo quella partita mai finita. Siamo quella partita mai finita. La partita mai finita. E se continuo impazzirò probabilmente. Se la partita non ne finisce mai impazzirò. Sono John Nash che gioca a calcio, che gioca a scacchi. È meglio che ti ritiri dalla partita prima di farti male, prima di fermarti. Non mi sono neanche accorto di aver perso. Forse ho perso soltanto l'intelletto. Sono assorto nei miei pensieri. Comporta questo che comporto un danno sociale. Fatemi male. Continuate a farmi male. Sì, perché io ho imparato anche a sanguinare. Fatemi male. Fatemi male. Perché ho imparato anche a sanguinare. Vorrei avere una pistola per spararmi, please. Passami la Smith & Wesson lì, che provo a tirarmi un colpo in testa, a vedere se poi si muore e basta, o se c'è qualcosa dopo la morte, quindi ti sparo in testa. Buona al di là.